Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci qua nuovamente in diretta dopo il GR di Radio Popolare lunedì 15 gennaio 2024 nel Last Minute, che ufficialmente ci porta in scena ma con dei contenuti che, se vogliamo, vanno in intersezione con la rubrica In Mostra. Intanto, come ho detto, anche perché io leggo sempre tutti i messaggi, ovviamente siete un po' come la CGL, scrive Federico, che sosteneva i mal di pancia contro i T-Day. Allora, secondo me è un po' mettere insieme pizza e fichi, cioè sono due argomentazioni completamente diverse, quelle relative ai T-Days e quelle relative a una città, ai treni. Sono due aspetti completamente diversi. Comunque, ora è il momento di parlare del nostro Last Minute. Avremo modo di continuare la conversazione tra pro e contro al Breakfast Club, e non solo, anche negli approfondimenti giornalistici, anche perché su Radio Città Fujiko, fortunatamente, come ben sapete, convivono diverse modalità di pensiero. Meno male, dico, in momenti come questo l'eterogeneità e la possibilità con libertà di espressione è fondamentale. Bando a tutte queste conclusioni, parliamo, come vi ho detto, di quello che sarà al Teatro Duse giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 21. Lo anticipiamo un po', ma merita. Caravaggio il Maledetto con Primo Reggiani e Francesca Valtorta. Al Teatro Duse, via Cartoleria, il fascino inconfondibile di opere che sembrano pronte a prendere vita. E non solo, la tecnica del Caravaggio, che ottiene la luce dallo il tenebrismo di Caravaggio, che sarà maestro e capostipite poi di un percorso artistico veramente molto particolare e seminale. Caravaggio allo stesso modo Maledetto, Caravaggio irascibile, anche violento, ed è uno spettacolo con Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Fabrizio Bordignon. Sarà in scena alle ore 21 per la precisione, e quello che sarà un Caravaggio che arriva a fare i conti con se stesso. Ed è appunto negli ultimi giorni, quando sarà, non dico ricoverato, però in una convalescenza a riposo, in cui, come si dice, la vita ti passa davanti, no? Allora sentiamo dal protagonista, co-protagonista Primo Ruggeri per Caravaggio il Maledetto, un po' quali saranno i contenuti relativi a tutto ciò, intervistato di recente ai microfoni di Radio Città Fujiko. Al Teatro Duse, giovedì 18 gennaio alle ore 21, uno spettacolo che mette insieme anche un'altra nostra rubrica al Breakfast Club, che è In Mostra. Il titolo di tutto ciò è Caravaggio il Maledetto. Siamo con un co-protagonista che è Primo Reggiani, al quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Si tratta di un identikit per luci e ombre, del resto il gigante dell'arte, del chiaroscuro, del tenebrismo, ma allo stesso tempo anche di un grandissimo valore artistico che poi sarà caposcuola di percorsi nei secoli fino al contemporaneo. Tutto ciò come verrà portato in scena, Primo? Ma guarda, intanto stiamo parlando, sì, forse, come hai detto te, ma hai detto bene, del più grande, forse del più grande pittore di tutti i tempi, se non uno dei. E niente, noi partiamo dalla sua ultima settimana di vita, da quando Caravaggio viene ritrovato a Portercole, quasi in fin di vita, dopo l'ennesimo litigio, l'ennesima baruffa, perché lui era un vero ribelle. La sua vita è piena di fughe da Milano, da Roma, da Napoli, fino ad arrivare a Portercole. Quindi noi appunto partiamo dall'ultima settimana di vita, dove lui, ormai febbricitante e morente, ha delle allucinazioni dove ricorda parte della sua vita artistica e della sua vita privata. Quindi ricordiamo la grandezza dell'artista, del fatto che lui, appunto, come ho detto prima, era un grandissimo rivoluzionario, un grandissimo personaggio, che mise, fu il primo e l'unico a mettere sul volto dei santi il volto del popolo. E quindi questo lo rendeva appunto moderno, quasi contemporaneo. E con una tecnica incredibile che per l'epoca era qualcosa di oltre che avanguardia, non solo di contenuti ma anche in concretezza, insomma. Beh, certo, lui portava la luce vera, portava la luce vera sui quadri, e quindi lavorando sulle ombre, perché poi la luce viene fuori se c'è l'ombra. Esattamente. Sì. E infatti nello spettacolo lo ricordo e dico: tutto parte dal nero, e dipingere consiste in questo, nell'aggiungere dei raggi di luce su quel nero. E come diceva Thelonious Monk, c'è un'ottava nota che è il silenzio. E tutto ciò può essere, e del resto anche il grande jazzista non era esattamente uno stinco di santo. Comunque Caravaggio ha fatto ben di peggio, se vogliamo, pur essendo un rivoluzionario. Su di lui tantissime condanne anche. Eh sì, appunto, lui è dovuto scappare inizialmente dalla Lombardia, dalla sua terra nativa, poi è andato a Roma ha avuto a Napoli, poi da Napoli è scappato, è andato a Roma, e da Roma fino a Portercole. Insomma, lui veramente aveva un caratteraccio, insomma, era uno che non sopportava nulla, nessuno. Irascibile e quant'altro, insomma. All'interno dello stesso disco Brilliant Corners, che vede presenze, stiamo ascoltando il sax di Sonny Rollins, il frontman è Thelonious Monk, alla batteria Max Roach, uno dei dischi più rappresentativi nella carriera del poliedrico, e così anche, se vogliamo, dai, originale, per usare un eufemismo, genio della musica. Thelonious Monk, in paragone, sapete che aggiungo sempre la musica e gli aspetti artistici, ma in questo caso siamo in scena, al Caravaggio portare Thelonious Monk. Caravaggio dall'oscurità e dal buio portava la luce, Monk dalla ottava nota che lui riteneva il silenzio aggiungeva suono, portava suono anche grazie al silenzio. E in poco più di un'ora di uno spettacolo, sarà giovedì, abbiamo anticipato ma ritenuto last minute, 18 gennaio alle ore 21 al Teatro Duse in via Cartoleria 42, ovviamente a Bologna, Caravaggio il Maledetto. In questa convalescenza terminale passerà davanti al protagonista Caravaggio una vita certamente intensa, interpretato da Primo Reggiani insieme a Francesca Valtorta, questo per aggiungere qualcosa anche al palcoscenico, di cui parleremo in maniera più approfondita con Primo Reggiani. Assolutamente no, sono in compagnia di Francesca Valtorta e di Fabrizio Bordignon, e la regia di Ferdinando Ceriani. E Francesca interpreterà due personaggi che sono Lena, che è la sua musa ispiratrice, che a quanto si sa pare che fosse anche, insomma, una prostituta dell'epoca, dove lui poi si è divertito a raffigurare la Madonna con la faccia di questa di questa sua amante, ecco, per ritornare al discorso di prima. Mentre, e poi l'altro personaggio è la pescatrice che lo trova lì sulla spiaggia di Porto Ercole, insieme a Fabrizio Bordignon, che interpreta tre personaggi: il suo mecenate, che era il cardinale Dal Monte, quindi parliamo della fase romana di Caravaggio, e Valentino, il suo primo maestro, diciamo, di bottega, cioè quello che lo ha inserito e che le prime commissioni gliele appunto procurava questo Valentino, e poi il pescatore che insieme alla pescatrice ritrova Caravaggio a Porto Ercole, appunto su questa spiaggia. E sarà al Teatro Duse Caravaggio il Maledetto con Primo Reggiani, Francesca Valtorta e oltre, giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 21. In conclusione, Primo, senza svelare niente, se riusciamo, si è un po' pentito Caravaggio di tutto ciò? Ma secondo me Caravaggio si è pentito di non essere riuscito a comunicare tutto quello che aveva voleva dentro. Secondo me è il grande rimpianto del maestro. Grazie tanto per questa conversazione e appuntamento al Teatro Duse. Grazie, vi aspettiamo giovedì. Grazie mille. Disponibilità al Teatro Duse, all'ufficio stampa, seguiremo anche il palcoscenico di Via Cartoleria 42, ma Primo Reggiani, protagonista di Caravaggio il Maledetto, che sarà 18 gennaio, è un giovedì alle ore 21. Intanto che abbiamo messo assieme in pochi minuti anche musica con Thelonious Monk, l'arte di Caravaggio e il palcoscenico in scena, seppur lunedì di inizio settimana, ascoltiamo qualche nota da Misterioso, brano di Thelonious Monk ovviamente, pubblicità e poi si parte con i Magazine. A tra poco, buon ascolto.